Ok, beh, ciao a tutti, finalmente apriamo questa discussione, dibattito, conferenza, chiamiamolo così, con il piacere, vabbè, a nome del Molino, a nome della Chiudo Fisso Records, abbiamo quattro di noi i Rain, che sono questo gruppo folk pacianca di Roma, e sono venuti un po' qua da noi a parlarci un po' di musica indipendente, copyleft, musica dal basso, legata un po' al contesto che stiamo portando avanti qua noi al Molino, con la Chiodo Fisso, che è questa sala prove che esiste da un anno e che pian piano si sta trasformando in un'etichetta proprio per creare un canale di musica dal basso qua in Ticino, che a parte situazioni come Radio Gwendalyn o Scatola Nera, è il Ticino praticamente esente da situazioni di questo tipo. L'idea appunto è di creare un dibattito, una discussione con queste due realtà così distanti ma allo stesso tempo abbastanza vicine per quello che riguarda i contenuti. Lascio, non so, la parola a Gianluca, cantante dei Rain, e vediamo un po' cosa hai da dirci. In realtà cercare di raccontare un po' cos'è una realtà musicale indipendente, comunque qual è il nostro percorso, che poi tra l'altro è il nostro, non necessariamente è un percorso standard, anzi in realtà poi abbiamo fatto delle scelte nel tempo che ci hanno portato ad avere un profilo abbastanza nostro, però comunque è anche vero che la nostra è una storia che in qualche modo può servire come, non dico tanto come punto di riferimento, però può servire per capire un po' come si può fare, se si può fare musica al di là dei, magari dei sentieri già tracciati, già percorsi. Noi facciamo dischi dal 2004 al 2005 circa, e abbiamo praticamente da subito sposato la politica del copyleft. Quindi quando uscirono le licenze Creative Commons in Italia alla fine del 2004, abbiamo quasi immediatamente aderito a questa filosofia, ritenendola giusta, ritenendola necessario per poter sviluppare musica indipendente. Quindi le due cose, diciamo, i due binari in cui abbiamo sviluppato il percorso sono stati quelli di appunto di aderire ad un modello di musica libera, cioè musica legalmente scaricabile dalla rete e legalmente immissibile in quelle reti di peer-to-peer tipo i Mule, tipo tutto ciò che in qualche modo viene considerato pirateria. Noi abbiamo ribaltato il concetto di pirateria, abbiamo invece cominciato a parlare di condivisione, ritenendola non un danno fatto ai danni del musicista, insomma, ma una risorsa, un qualcosa, uno strumento che poteva permettere al musicista indipendente di avere maggiore visibilità, di avere un'arma in più. E dall'altra parte l'altro filone portante è stato quello dell'indipendenza. Noi non abbiamo mai spedito un demo, un CD o cose del genere a nessuna etichetta discografica. Ci abbiamo sempre pensato che si potesse fare musica organizzandoci, utilizzando gli strumenti della rete, del digitale, che erano poi le grandi novità di questi ultimi 10 anni, cose che non c'erano negli anni 90, e in questo modo si poteva fare autoproduzione in maniera nuova, raggiungendo anche livelli differenti rispetto a quello che magari aveva raggiunto l'autoproduzione storica. Quindi copyleft e autoproduzione. Poi ovviamente dipende dalle situazioni. Noi veniamo da Roma e Roma è sicuramente una città che ha un bacino culturale abbastanza forte, ci sono molte radio indipendenti, ci sono molti centri sociali e c'è comunque un tessuto sociale urbano in qualche modo ricettivo, per cui abbiamo anche avuto la possibilità di partire da un centro metropolitano che era sensibile, in cui si poteva comunque fare un investimento culturale, e poi anche geograficamente parlando sta al centro dell'Italia, quindi anche raggiungere le varie altre parti per cominciare a spostarsi, perché poi l'altra cosa fondamentale è suonare tanto, quindi essere presenti sulla rete per quanto riguarda il download e poi essere presenti sul territorio suonando. È ovvio che se uno abita, che ne so, a Trieste o abita a Palermo è più complicato, invece stai al centro, forse anche questa cosa in qualche modo può averci agevolato. Però insomma, questa è un po' la storia per volendo riassumere, ecco. Comunque in questo modo abbiamo potuto produrre dischi, i dischi sono stati venduti in migliaia di copie, abbiamo potuto fare 500-600 concerti in questi anni, che non sono pochi, in realtà sono anche troppi, e abbiamo potuto comunque abbiamo tuttora una vita artistica di cui siamo contenti e che piano piano ci sta portando anche ad avere dei risultati belli, che insomma 5-6 anni fa erano impensabili, o che pensavamo fossero appannaggio esclusivo di magari di realtà che invece scelgono la major. il grande sistema discografico, il grande sistema televisivo, che poi tra l'altro, come dicevamo anni fa, ormai è privo di forza intrinseca, non c'è più il grande produttore che c'era 10 anni fa, non c'è più la grande televisione, la grande radio, sono realtà che per fortuna si stanno suicidando lentamente e la rete gli sta dando un'ultima spallata. Ecco, questo è un po' il contesto. Ma magari non so, spiegaci un po' come è nata anche l'idea di voler mettere la musica in condivisione online, di modo, cioè, io sono arrivato a conoscenza dei Rain proprio tramite internet, e aver già da subito potuto scaricare gratuitamente la vostra musica è stato qualcosa di fantastico, proprio perché sono riuscito qua a Lugano, in Ticino, una realtà che è completamente al di fuori da certi circuiti, da certi modi di pensare, e riuscire a diffondere anche la vostra musica in maniera libera, senza dover avere la remora di dover contattarvi o dover chiedere conto a voi. No, ma in realtà la risposta sta nella tua domanda, cioè ribaltando nei termini, si potrebbe chiedere come avremmo fatto noi ad arrivare qui a Lugano senza il Copyleft, cioè come saremmo dovuti passare o per una radio svizzera oppure per il tuo acquisto del CD in qualche modo, cioè non avendo una possibilità, un canale legale infinitamente duplicabile come la rete, per poter in qualche modo anche spargere la musica senza problemi, senza costi, perché la rete non ha costi, non è che costa qualcosa far scaricare 20.000 copie del proprio disco da internet, è gratis. Non avremmo mai potuto raggiungere tante delle cose che ci hanno, insomma, che ci hanno interessato. Quindi in realtà le motivazioni sono due. Una è di pura convenienza, perché in un'epoca in cui c'è la banda larga, ci sono i social network, il consenso e la cultura si comincia a creare in rete, si comincia a creare sui vari profili di Facebook, si comincia a creare tra utenti che dialogano, rinunciare alla possibilità di avere la musica libera è un suicidio. Cioè pensare di poter diffondere una musica che non è spinta da nessuno, semplicemente vendendo le 1.000 copie che si stampano, insomma, è veramente un discorso perdente. Quello è un ragionamento proprio di tipo pratico. Poi c'è un ragionamento di tipo etico, a cui noi crediamo molto, ed è un discorso un po' più vasto, che si riallaccia alla cultura dell'open source in generale, quindi tutto quel filone che in informatica ha dato vita poi al sistema operativo Linux, per esempio, sì, e che invece in musica si è abbracciato al filone del Creative Commons, del copyleft in generale. Cioè, considerare la creazione intellettuale, la creazione artistica alla stregua di una proprietà privata, come se io mi compro la macchina, in qualche modo ha un problema, perché il sapere in teoria non dovrebbe essere privatizzabile fino a quel punto, perché lo riteniamo una cosa non giusta, ma per un motivo molto semplice: non si inventa mai niente. Quando uno scrive una canzone, in linea di massima la scrive perché ha sentito, ha letto, ha visto film, è imbevuto di tutta la cultura che ha respirato fino al momento in cui l'ha scritta. E in qualche modo è un furto vero e proprio. In questo caso si può dire che la proprietà privata è un furto senza nessun problema. Cioè è un furto vero e proprio dire questa cosa è mia. Forse è più sano dire questa cosa è nostra. Già è una cosa un po' più sensata. Dire che è nostra, nel tradotto, vuol dire: vabbè, la canzone l'ho scritta io, è mia, diciamo, però almeno alla collettività diamo la possibilità di scambiarla liberamente, di poter fare una serie di cose in libertà. Invece il copyright veramente è lo stesso dei brevetti, il copyright, per capirci. Invece probabilmente nella parte culturale il brevetto non funziona, è qualcosa di lontano, e poi blocca la conoscenza, perché se le conoscenze sono chiuse, se i saperi sono chiusi, vanno pagati ogni volta, è impossibile mettere in moto quel meccanismo virale che ha l'arte, che ha la cultura, che dovrebbe essere dirompente, dovrebbe essere legata a quei meccanismi tipo la musica popolare, come era prima dell'invenzione dei giradischi, no? Che le canzoni erano di tutti, si facevano in piazza e tutti quanti potevano attingere a un bagaglio culturale vasto, condiviso e di tutti. Quindi il copyleft si mette a mezza via tra il copyright e il pubblico dominio, diciamo. Cioè il pubblico dominio è la Divina Commedia, per esempio, che è di tutti, non è che c'è qualcuno può farci soldi sulla Divina Commedia. Il copyright invece ti dice: questa cosa è solo mia, per farci qualsiasi cosa mi devi chiedere il permesso, eccetera eccetera. Il copyleft ti dice: alcuni di questi diritti sono riservati. Invece il copyright la ci dice: tutti sono riservati. Alcuni di questi diritti sono riservati, altri invece sono liberi. E noi invece in questo caso abbiamo detto: siete liberi di scaricare, siete liberi di masterizzare, siete liberi di diffondere sulle reti peer-to-peer, di fare quello che assolutamente vi pare, a patto che non ci fate i soldi sopra. E ovvio, se qualcuno prende le canzoni nostre su cui abbiamo lavorato e ci comincia a lucrare sopra, beh, allora magari se ne parla un attimo, mangiamoci insieme. non te la rubi, cioè non dici che è tua, sarebbe carino anche quello, e soprattutto quando utilizzi quel contenuto devi dichiarare che quel contenuto è rilasciato secondo quel tipo di licenza, per cui le licenze copyleft sono virali in qualche modo, cioè quando si mette un contenuto copyleft in circolazione a sua volta deve essere sempre dimostrato che quel contenuto è copyleft, quindi non si può, è un processo che non può tornare indietro proprio per come è fatta la natura del copyleft stesso. Quindi questo è stato uno strumento veramente importante. E poi mi viene in mente un'altra cosa. Voi fin da subito avete abbracciato questo tipo di filosofia. Mi chiedo qual è stato il rapporto, qual è tuttora con gli organi di monopolio della musica, tipo la SIAE. Adesso non so com'è la legislazione in Italia. Immagino che avete dovuto rendere conto di questo quando avete prodotto. Sì. Beh, la SIAE in Italia ha una condizione di monopolio per legge. Ossia, in teoria la legge sul diritto d'autore ti darebbe è molto concentrata sull'autore, cioè dà tutti i diritti all'autore, tutela fortemente l'autore. Però siccome lo Stato non è in grado poi di gestire realmente all'atto pratico il diritto d'autore, negli anni ha delegato per via esclusiva moltissime competenze a SIAE, per cui SIAE in pratica alla fine detta legge su una grande quantità di casi in cui poi c'è musica, c'è l'utilizzo di opere protette, tutelate. Noi inizialmente ci siamo iscritti a SIAE nel 2004 con tutta l'ingenuità del caso, c'è una grande disinformazione sulla SIAE, come tanta altra gente magari pensavamo cose tipo che la SIAE fosse una sorta di sindacato dei musicisti o che grazie alla SIAE non ci potessero rubare le canzoni, quando uno scrive una canzone ha sempre paura che qualcun altro te la rubi. In realtà poi questo ti rendi conto che è un'idiozia, perché non è quello il problema, non è che si rubano le canzoni, il problema è che non ci stanno i soldi per farle, non c'è più quella cultura del fare le canzoni, quindi magari qualcuno se la rubasse, ma questo lo capisci dopo. All'inizio sei preoccupato, ti immagini il furto e che il tuo vicino di banca diventa famoso al posto tuo, non esiste questa cosa. Però all'inizio uno dice, ah, corro in SIAE e mi tutelo, divento anch'io, faccio quello che fanno tutti quanti, quelli che vedo in televisione, quelli, una cosa normale. Ci vuole la SIAE, come se sono giornalista ci vuole l'ordine dei giornalisti, sono musicista ci vuole la SIAE, non è vero in realtà. La SIAE fa un ruolo da intermediario semplicemente, cioè tu dici io non posso gestire ogni volta che la mia canzone viene utilizzata in ogni singolo posto di tutto il territorio nazionale e internazionale, mi serve una grande organizzazione che in qualche modo mi aiuta a riscuotere il diritto d'autore, a tutelarlo quando serve, e quindi do la palla alla SIAE. E il problema è che SIAE non va d'accordo con Creative Commons, quello poi è il punto, cioè se uno è iscritto alla SIAE non può licenziare delle canzoni in Creative Commons, questo per un motivo molto semplice, perché fra le tante cose che lo Stato ha dato in via esclusiva alla SIAE nel corso del tempo c'è anche la possibilità di emettere licenze, e quella Creative Commons è una licenza, cioè se si è iscritti alla SIAE soltanto la SIAE potrebbe eventualmente fare una licenza come Creative Commons, cioè permettere questo libero utilizzo. La SIAE questa cosa non ha neanche in testa, non gliene frega niente, è fatta da uomini che vengono da un altro tempo, da un'altra epoca, da monopolisti, da gente che sta lì comunque seduta su posizioni dominanti, e del copyleft gliene importa poco o nulla. Quindi noi che ci siamo sempre comportati da militanti comunque su questo, almeno su questo aspetto, nel 2007 abbiamo deciso di cancellarci dalla SIAE, perché non c'era verso per integrare le due cose. Noi crediamo tuttora che il copyleft sia una scelta assolutamente fondamentale, strategica, da cui non si può prescindere, giusta e utile al tempo stesso, e quindi ci siamo cancellati, e per due o tre anni abbiamo lavorato senza SIAE. Quindi abbiamo fatto un esperimento, abbiamo visto che succede a fare musica se non si è iscritti, se non si è tutelati a una collecting society, che si chiamano poi, che ci sono anche in Svizzera, sicuramente. Sì, ce ne sono in tutta Europa, in tutto il mondo. Ci siamo resi conto alla fine di questo esperimento che in qualche modo questo danneggiava l'artista. Cioè noi ci trovavamo a non poter riscuotere quando c'era l'occasione, quando era giusto riscuotere, quindi quando magari passaggio in Rai per esempio, oppure un grande concerto in cui c'era fatturato, c'erano gli organizzatori che facevano i soldi e c'erano i bordereau e noi lasciavamo in bianco, ci siamo resi conto che a un certo punto, salendo un po' di livello, quei soldi ti servono, perché sono i soldi necessari a mandare avanti la baracca. Quindi il copyleft in qualche modo si stava anche ripercuotendo contro quello che era il nostro percorso, perché comunque ci lasciava in linea di massima sempre impoveriti, non ci permetteva di avere le risorse per poter mantenere anche il livello a cui stavamo arrivando. E quindi abbiamo cominciato a ragionare e a capire come si poteva fare in qualche modo a mediare. Il principio era quello per cui è giusto che il locale paga, cioè ci deve essere il diritto d'autore, se vado in Rai ci deve essere il diritto d'autore, dove ci sono le situazioni in cui la gente fa i soldi grazie alla nostra musica ci deve essere il diritto d'autore, ed è giusto ed è sano, ma se la qualsiasi persona X scarica la nostra musica da internet deve poterlo fare, è giusto anche quello. Cioè noi dividiamo nettamente fra un utilizzatore di tipo economico e un utilizzatore che invece è il pubblico, che è la gente, che vogliamo, che deve poter, come hai fatto tu quando ci hai scaricato, insomma, è una cosa sacrosanta. E da 2-3 mesi siamo riusciti a risolvere questo problema, abbiamo fatto un nuovo passo in avanti, ci siamo riscritti in SIAE, ma limitando il mandato. Cioè, all'interno di tutto ciò che è online, che è rete, che è internet, noi non siamo iscritti alla SIAE. E all'interno di quella nicchia abbiamo scritto una nuova licenza simile a Creative Commons che agisce solo per l'online. Quindi, insomma, detto in soldoni, quello ti dicevo. E quando si suona in un locale, quando si suona, ci sono i soldi, perché c'è anche un margine di profitto da parte di chi ti ospita, noi prendiamo i soldi grazie a SIAE. Per tutto ciò che invece è internet, dove c'è poi la gente, vale il principio del copyleft. Quindi questo adesso è il nostro punto d'arrivo. E devo dire che per il momento sta funzionando molto molto bene. Invece, per quello che concerne un po' quello che è l'aspetto politico anche nei vostri testi, nei vostri lavori, ho letto che, vabbè, voi vi rifate molto ai testi di Latouche, allo sviluppo sostenibile, avete addirittura fatto l'ultimo lavoro che è, tra virgolette, un lavoro ecologico. Sì. Ci puoi parlare di questo? Ma, sai, guarda, facendo dischi, facendo canzoni, producendo, perché poi quella della musica è una parola un po' brutta, però in realtà è una produzione, si ha anche modo di sperimentare, di trovarsi in prima fila dall'altra parte del muro, diciamo, no? Quindi in qualche senso noi costruiamo ciò che poi verrà consumato, e c'è la possibilità di sperimentare delle soluzioni alternative nei confronti della produzione. Noi abbiamo sempre cercato strade differenti. L'ultima cosa che abbiamo fatto è proprio quella di rendere il CD a impatto zero, vuol dire noi abbiamo ripagato attraverso un progetto promosso dal network di LifeGate, abbiamo sostanzialmente riforestato una parte del Madagascar per compensare le emissioni di CO2 che erano state causate dalla produzione del disco. E quella è una cosa che comunque, oltre ad essere simbolica, è reale poi di fatto, perché c'è una cosa che è certificata, ma è un modo di dire si può fare come cosa. Uno si ritaglia un margine del budget che ha a disposizione per una produzione e fa una produzione verde. Perché farla? Perché è giusto. Ci sono delle cose che si fanno molto semplicemente perché è giusto. Questo non il mercato non ragiona così, ovviamente. Il mercato fa le cose perché c'è il profitto. Però se uno vuole in qualche modo liberarsi da quel tipo di logica, a un certo punto deve, ogni 2x3 dovrebbe fermarsi e dire no, lo faccio perché si fa, perché è giusto così, altrimenti non cambierebbe mai niente. E questo poi fa parte anche del discorso decrescista in qualche modo. Noi abbiamo avuto comunque la possibilità di scambiare alcune lettere con Latouche, che è un filosofo, un antropologo francese che ha investito molto nel discorso decrescista, quindi nel trovare una via differente allo sviluppo e al superamento della globalizzazione economica e culturale. Di fatto lui partiva comunque dall'analisi dallo studio delle popolazioni africane, del fatto che in Africa c'è il dono sostituisce il mercato in molti casi, per cui si creano delle reti sociali, delle reti anche economiche, senza la monetarizzazione ma semplicemente attraverso lo scambio, attraverso questa reciprocità. Ed è un po' il meccanismo del copyleft per molti aspetti, cioè noi comunque doniamo la nostra musica ma poi abbiamo in parte in cambio, cioè la contropartita è quella di avere comunque un pubblico che ci riconosce questa operazione, che sa che comunque insieme al nome Rain c'è uno sforzo, c'è una battaglia, c'è un percorso. E quindi anche inserirsi in questo filone suonando, perché noi facciamo musica, non è che costruiamo palazzi o variamo leggi o facciamo i falegnami. Il lavoro nostro è fare musica, quindi cerchiamo di applicare quelli che sono dei principi per quello che a Genova era stato chiamato un mondo diverso e possibile, lo applichiamo semplicemente in quello che è la produzione musicale di un gruppo. Sì. Tutto qua. E funziona soprattutto. vedono che comunque piacciono, no? Allora iniziano a dire, ok, adesso voglio fare il mio disco, no, voglio mettere fuori qualcosa. Chiaramente non è che ci vivrò, però, che ne so, un sogno, un giorno ci vuole vivere della mia musica. Certo. E mi chiedevo, cioè, quanto è stato difficile arrivare fino a questo momento qua, dove voi avete adesso, come dicevi tu, potevate ricompensare l'emissione. Esatto, no? Oppure appunto lavorare con il copyleft e presumo altri modi, no? Di, comunque di promuoversi, di esprimersi, no? Cioè quanto ci è voluto? Beh, ok, sono nato dal 2004. Noi sogniamo, sì, abbiamo facciamo dischi dal 2004. Cioè la disinformazione che c'è, quant'è, no? Nel senso, e come si potrebbe fare ad arrivare a toccare quelle teste importanti che, per esempio qua abbiamo Info Giovani, abbiamo certe istituzioni che aiutano i giovani a produrre un disco, no? Sì. Però sono sicuro che loro non ti dicono, guarda, prima di partire sappi che dovresti fare, anzi, devi fare questo, perché cioè devi compensare quello che produci. Cioè sono questi passaggi che devi fare perché io la so meglio di te, no? Cioè tu devi farlo così perché è ora che iniziamo a muovere le cose, no? Cioè quante difficoltà avete avuto? Ma guarda, difficoltà in realtà no, non è che sia stato difficile, è stato un percorso lungo. La disinformazione si risolve informandosi, quello è proprio fondamentale, quindi bisogna sempre leggere, bisogna andare a cercare laddove c'è uno sforzo di proporre cultura e controcultura, cultura alternativa, quindi dove c'è qualcosa che va al di là e va oltre, va contro la cultura dominante, ciò che si sente sentito dire, beh allora forse vale la pena approfondire, approfondendo alla fine poi metti insieme quello che è il tuo percorso. Ma poi soprattutto secondo me c'è una considerazione importante da fare, che è quella per cui oggi forse i musicisti non dovrebbero cominciare a ripensare il loro ruolo e a scordarsi di essere semplicemente degli autori di canzoni che vanno in giro a suonare. Diciamo che noi siamo un po' traviati da aver visto un po' troppi film, aver letto un po' troppe interviste di grandi rockstar che praticamente si occupano soltanto della loro musica e basta. Un musicista un po' più attivista, un po' più attento alla produzione, un po' più legato a quello che fa, anche agli altri aspetti che non sono solo musicali, sicuramente riesce a capire anche quali sono le cose più innovative, dove conviene investire, dove conviene muoversi, dove conviene fare uno sforzo o intraprendere un percorso. È ovvio che se uno fa la canzone, per quanto bella sia, e poi cerca un produttore, gli auguro il meglio, però non è detto che quel canale che ormai è intasato e soprattutto indebitato, impoverito, non ha più spazi, gli dia poi la soddisfazione di vedere questa canzone circolare. Ecco, spesso bisogna un attimino ingegnarsi, bisogna fare un passo indietro dal punto di vista di quello che è il palco e basta, scendere sotto e cominciare anche a aprire gli occhi, a parlare, a fare anche politica culturale, se non necessariamente solo politica. Cioè, bisogna un attimo anche rimpossessarsi del ruolo del produttore musicale, che non necessariamente è appannaggio di un personaggio che è un altro rispetto al musicista. Non è impossibile fare produttori, soprattutto nell'era del digitale, poi non è che servono questi capitali incredibili, serve anche l'idea, così. L'idea è o ce le hai oppure delle frodi, cioè si va in giro e si vedono quali sono le cose che ti possono interessare, che dici, ah, questa cosa si può fare così, la provo. Adesso è molto più semplice perché i dischi si registrano con poco, con meno rispetto a prima, la rete ti permette una possibilità di di veicolare i tuoi concetti molto più sviluppati rispetto a prima e quindi si può fare. Certo, fare un discorso del genere 15 anni fa era molto complicato, sicuramente, anche 10 anni fa. Oggi si può fare, quindi va fatto probabilmente. Spero di aver risposto. Infatti una riflessione mi viene in mente un po' quello che erano anche i discorsi dei punk negli anni 80, il do it yourself, il creare una musica dal basso, una musica che vada contro quello che erano un po' gli schemi preconfezionati della cultura predominante. Oggi, come dicevi te, i tempi sono cambiati e i musicisti a cui preme cercare di promuovere musica diversa, alternativa, che nasce dal basso, si deve, tra virgolette, anche un po' adeguare a quelle che sono un po' anche le nuove tendenze, soprattutto nell'era del digitale, della rete, in cui c'hai molte più possibilità di riuscire anche a megafonare un po' quello che sono anche i tuoi contenuti. Quello che però mi chiedo è se questo però non è anche un'arma un po' a doppio taglio, perché di fondo utilizziamo quello che è, tra virgolette, un po' il sistema per cercare di diffondere i nostri contenuti, la nostra musica in maniera alternativa, però allo stesso tempo diamo acqua al mulino del sistema, in fondo, perché comunque, nel senso, chi ha in mano, nel senso, comunque quello che è il digitale, quello che è comunque, nel senso, la grande rete di diffusione, cioè non è chi porta avanti un discorso di musica alternativo, ma sono le grandi corporation, in fondo. Mi chiedo dov'è il limite anche. Ma quello che diciamo però va detto che internet, soprattutto nell'era del web cosiddetto 2.0, in cui quando sì, qualsiasi utente è anche produttore di contenuti, non soltanto ricettore di contenuti, stabilire la proprietà di internet è un'operazione abbastanza complicata, nel senso che è vero che, io so, Facebook per esempio, MySpace, tutta gente che poi fa capo a una società, a una corporation, sicuramente, però è anche vero che questa corporation, per scelta proprio costituzionale, sostanzialmente rinuncia a moderare i contenuti che vengono veicolati, per cui direi forse che la scatola, sì, è vero, è di proprietà di una multinazionale, di una corporation, ma i contenuti no, o quantomeno sono molto difficili, è molto raro che vengano cancellati dei profili, insomma succede proprio in casi eclatanti, ma in linea di massima perché non interessa il controllo di quello che viene trasmesso, ma l'interessa che ci sia trasmissione di contenuti, su quello loro fanno dei soldi. Al mercato, come ti dicevo prima, non fa la cosa giusta, fa la cosa che più conviene, anche a costo di uccidersi farebbe la stessa cosa, per cui semplicemente conviene che ci sia internet, c'è tanta pubblicità, fanno tanti soldi e quindi si è costruito un sistema che di fatto tende molto più a essere libero che non ad essere assoggettabile. Voglio dire, la rete di internet è lontanissima dal sistema televisivo, dal sistema delle radio, dove si, oltre a controllare la proprietà del sistema, si controllavano e si purgavano anche i contenuti, e questo sempre di più. La televisione è diventata una mondezza, non si può più guardare, fa veramente schifo. È una tomba, una cosa morta che sostanzialmente continua a vomitare merda per la gente che ancora ha la forza per ascoltarla, ma è priva di qualsiasi tipo di capacità propositiva. Io lo trovo vecchia in una maniera spaventosa. È veramente un mezzo del Novecento la televisione. Per cui bisogna pensare all'internet, secondo me, come uno strumento, come un... dicevo prima a Marcello mentre arrivavamo in furgone, è come se fosse un martello, diciamo. Un martello non è che è buono o è cattivo, dipende quello che ci fa in quel caso, perché poi è vero che il tuo profilo è tuo, cioè non è che c'è qualcuno che ti dice devi dire questa cosa, non puoi dire quella parolaccia, non puoi fare questa certa cosa. Addirittura poi col copyleft non ti può dire più niente nessuno, perché tu sei anche autore e hai permesso la liberazione della tua musica su questo canale, per cui lo trovo abbastanza antisistemico in realtà utilizzare la rete, proprio perché la rete non è proprietaria per definizione. Sì. Insomma, magari anche un po' per concludere una riflessione riguardo anche un po' quello che stiamo portando avanti qua al Molino. Come ho detto prima, da un anno a questa parte abbiamo creato una nuova sala prova autogestita al centro sociale che, tra virgolette, diciamo, nel senso, dovrebbe creare, se vuoi, nel senso, un'isola, se vuoi, che vada fuori da quello che è il contesto di business e delle etichette, dei marchi registrati che esistono in Ticino. Spesso, come dicevi te prima, i gruppi qua fanno affidamento a degli enti statali o parastatali che finanziano quello che è il loro, cioè la loro partenza nel mondo della musica registrata e nei concerti, così. Qua cerchiamo di andare un po' controcorrente a questa cosa, cerchiamo di creare musica dal basso in maniera orizzontale. Quello che però mi sento di dire è che a distanza di un anno il riscontro è molto poco, perché nonostante c'è molta affluenza al centro sociale, la gente bene o male è al corrente che esiste questo posto, non c'è questa grande, come dire, nel senso, questa grande voglia anche di immergersi in questo progetto e staccare quelli che sono i ponti con le istituzioni e cercare di creare qualcosa, come avete fatto voi, che nasca proprio dal proprio lavoro, senza dover per forza immischiarsi con dei marchi registrati o con delle etichette che non sono indipendenti. Non so, mi verrebbe da chiedere, qua che è una realtà completamente diversa dal contesto romano, che consiglio ci potete dare per cercare di veicolare questo messaggio e integrare più persone possibili? Ma sai, essendo una realtà così comunque lontana da quello che abbiamo conosciuto noi, io non conosco poi bene quali sono i limiti, per esempio, non tanto del posto, perché sinceramente qui è veramente meraviglioso, io non riesco a immaginare i miei limiti del mulino, veramente ho trovato un posto importante. Bisognerebbe capire, per esempio, gli enti statali e parastatali a cui tu mi fai affidamento, che in Italia sarebbero una leggenda, qualcosa proprio diverso nel paradiso, cioè un ente statale che ti dà i soldi per fare il disco, cioè noi ce lo siamo inventato ma anche per disperazione, perché l'alternativa era smettere di suonare. Probabilmente magari in questo caso potrebbe anche accadere che se trovano qualcuno, anche un'istituzione che gli dà una mano, perché non fidarsi? Alla fin fine lo Stato fa le strade, fa la ferrovia, controlla che il lago non esca fuori dagli argini, mi fa fare anche i dischi, magari lo fa bene come le strade, per esempio. Certo. Non so, prima se mi viene da pensare. Spesso quando c'è la miseria più nera, quando ti trovi di fronte a un muro, ti incazzi e dici mo lo spacco, oppure mo ci passo dietro, comunque ti ingegni. È ovvio che invece quando qualcosa tende a funzionicchiare o avere la sembianza, l'apparenza di qualcosa che funzioni, magari anche l'appeal che può avere la risposta alternativa alla controcultura diventa meno forte. Però sicuramente la grande differenza che c'è in un posto, in una realtà autogestita, completamente indipendente, completamente dal basso, è proprio nell'importanza dell'indipendenza, nell'importanza di poter avere uno spazio libero, uno spazio di militanza che non è di qualcuno, ma che è di tutti, che può essere partecipato, che può essere vissuto. Ma qui il problema è generazionale, in realtà. Quello che ci hanno veramente elevato poi è la capacità di pensare in collettivo, di pensare partecipato. Le generazioni a cui anch'io appartengo, purtroppo rispetto a quelle precedenti, hanno sempre diffidenza a fare le cose insieme agli altri, a fare qualcosa che non sia tuo ma che sia nostro. C'è sempre la paura che possa essere una fregatura, che possa essere un qualcosa in cui uno perde, insomma, poi il cinismo ti prende, uno non crede più in niente, pensa che chiunque creda a qualche cosa sia un sognatore, che dietro ogni situazione c'è sempre la truffa, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà poi non è così, ma bisogna anche superare quello che secondo me è un timore generazionale abbastanza forte, che ovviamente è indotto in maniera volontaria dal regime, perché ci vogliono di fondo, ci vogliono soli, e sconfortati, afflitti e docili consumatori, cioè vorrebbero che l'unica gioia, che l'unica soddisfazione che noi potessimo provare fosse quella di andare il sabato a fare la finanziaria per comprarci la cosa, così siamo tutti contenti e loro continuano a girare. È ovvio che bisogna riscoprire la bellezza di essere persone, di stare insieme, di costruire musica. Noi eravamo dei ragazzi di liceo, facevamo il secondo e se non avessimo suonato non so che cosa avremmo fatto in quegli anni, nel senso che poi non eravamo integrati, cioè non ci piaceva quello che facevano gli altri ragazzi, andavano in discoteca, facevano cose che non ci interessavano, non dico che noi eravamo migliori o che loro erano peggiori, però la musica è stata veramente una cosa importante, perché ci ha messo insieme, ci ha fatto lavorare come persone, che è una cosa fondamentale, che sembra una banalità, ma non è banale dire questa cosa è nostra, questo è il nostro progetto, ci siamo io, te, siamo sulla stessa barca. Ecco, questo credo che sia un valore aggiunto di uno spazio come questo che è veramente la marcia in più, è quello che là fuori lo Stato, la McDonald's, la Virgin, qualsiasi altro marchio che ha la C vicino, o la TM, o registrato, o comunque istituzionale, difficilmente ti possa dare, perché è figlio dello stesso sistema, che è un sistema, ripeto, della solitudine, secondo me, di fondo. Ma di fondo, cioè, una domanda che mi viene così spontanea, l'essenza che sta nell'indipendenza, soprattutto in fatto di musica, sta nei contenuti o nel cercare di essere più indipendente possibili a livello pratico, secondo te? No, secondo me entrambe le cose. Entrambe le cose. Sì. Nel senso che sicuramente se sei indipendente fai solo quello che dici tu, quindi non c'è nessuno che ti dice però questa cosa non si può dire, oppure dovresti prendere quest'altro, perché poi spesso anche le etichette lavorano in questo modo. Più sali di livello, poi almeno queste sono voci, non so, non abbiamo mai avuto a che fare con grandi produttori delle multinazionali, delle major, però è una cosa abbastanza rinomata, che un grande produttore ti affianca il produttore artistico di turno, che in qualche modo ti dà una bottarella qui, una bottarella là, e ti rende spendibile, aumenta il tuo appeal. Questo poi è perché tu devi vendere tanto e subito, come tutte le merci, e questa cosa te la levi subito dalle palle, che già è una soddisfazione non secondaria. E poi l'indipendenza la acquisti nella possibilità di produrre musica come vuoi tu, e quindi vengono gli esperimenti a impatto zero, viene il copyleft, quella per noi è stata l'indipendenza. Cioè è stata la possibilità di poter scegliere un percorso come ci pareva a noi, fare gli esperimenti, sbagliare anche, senza dover tener conto a nessuno, senza dover ringraziare o doversi scusare con qualcuno. Quindi essere anche responsabili delle proprie scelte e magari intraprendere con serenità un percorso un po' diverso, che non necessariamente avrebbe funzionato in realtà. Però lo fai anche a cuore leggero, perché dici, oh, sei tu, non è che stai sotto l'ala di qualcuno o cose del genere. In Italia poi questa cosa è un po' difficile, perché l'Italia è un paese che funziona molto con le spintarelle, con le amicizie, con gli aiuti. È ovvio che se tu non convieni a nessuno, non fai un favore a nessuno se vai avanti, beh, ti devi un attimino far valere, magari suonando, magari facendoti conoscere, facendo iniziative belle, ma prima che comunque un gruppo si affermi in quel modo, magari passa più tempo che invece quello che prende la scorciatoio, o quella che in Italia è la strada normale, diciamo. Cioè, se la strada in Italia è dritta, noi ci siamo rigirati sopra montagne, abbiamo fatto discese vallate, siamo andati al mare, poi siamo andati alla fine dove però abbiamo fatto un percorso più lungo, sicuramente. Certo. Però vai, insomma, io lo rifarei, penso anche voi lo rifarete, penso anche gli altri. Dove già non dorme? Mi dormi, dove già? Guarda che è tutto registrato, guarda che braccio. Tra l'altro, insomma, non mi ricordo se l'ho detto all'inizio, questa registrazione andrà su Radio Scatola Nera, che è un progetto, un contenitore multimediale, che lavora anche lì a livello orizzontale, cerca di captare un po' quelle che sono un po' questi segnali, queste spinte, questi messaggi che vogliamo dare, soprattutto per cercare di portare avanti dei contenuti un po' alternativi qua nella nostra piccola realtà. Scatola Nera, diciamo, esiste da qualche anno, è nata soprattutto nel 2007, quando c'è stato il G8 in Scozia, degli attivisti del Molino sono andati, e là dove adesso c'è la sala prove si è creata questa radio, in cui si era in contatto con questi attivisti, si mandava in streaming regolarmente quello che erano un po' le notizie, gli avvenimenti che succedevano. Pian piano, vabbè, la radio poi lì è scomparsa, è rimasta quello che è il contenitore, ovvero quando ci sono le conferenze, i dibattiti, si cerca sempre di registrare, mettere online la registrazione, cercare di condividere il più possibile. A Scatola Nera, beh, si possono trovare le voci di tante persone, da Renato Curcio a tante altre conferenze, a Giacomo Puzzi che è un sociologo, e si possono ascoltare online, e questo secondo me è un valore aggiunto a quello che è una realtà anche autogestita del Molino, che dà la possibilità anche a chi non è presente oggi di poter riascoltare discorsi importanti come quelli di stasera. Non so, io a me di domande non me ne vengono più in mente, lancerei un dibattito o qualcosa, se di voi che suonate. Volevo dire, sicuramente è molto difficile per il Molino, cioè dicevi che avete difficoltà comunque a portare persone a usare lo spazio, eccetera. E sono sicuro che comunque una parte di questa difficoltà è perché dalla popolazione, della gente, chiaramente una realtà come Molino è etichettata in un certo modo, no? Che è così, nel senso. Per esempio anche Radio Gwen, che bene o male è apolitica, no? Perché è la nostra scelta, non abbiamo voluto mettere le mani in certe cose, noi vogliamo promuovere la musica in generale, no? E vediamo che la gente si avvicina, cioè non ha tanta paura, si avvicina, anche se è una cosa un po' più alternativa, no? Un po' simpatica, si avvicina di più a questa facilità. Perché appunto c'è questa simpatia, no? E purtroppo però comunque vediamo questa cosa qua, no? Che noi vediamo a etichetta, no? Quella cosa lì è di sinistra, allora sono cioè un po' quello che si è visto anche nel film, quello con, come si chiama, Jack Nicholson, quelli che artisti. Easy Rider. Easy Rider, no? Cioè che li vedono come i cappelloni e addirittura quando li picchiano solo per quello. E secondo me questa è una grandissima difficoltà che abbiamo, sempre e costantemente. E quello che dicevi tu prima, che cioè, il musicista deve in qualche modo riguardarsi, no? Cioè deve, uno inizia, però deve rivedere il suo ruolo da musicista. Cioè in questo senso qua lui può veramente spaccare questi etichette, no? Cioè lui non può essere un musicista, avere un messaggio chiaro, dirla senza dover attaccarsi ad essere di qua, di là, no? Ad essere inizio. Cioè col pericolo che etichettandosi perde la possibilità di parlare con un'altra parte di gente, perché molta gente purtroppo solo per questo chiude le orecchie e gli occhi, no? Ed è un peccato, perché molte persone invece se magari gli parli anche direttamente, no? Come un musicista rivisto un po', no? Però che costantemente mette fuori quel messaggio, puoi andare a toccare tanto, cioè tutto un bacino, tutta una nicchia che invece rimane a occhi chiusi, a orecchi chiusi. Cioè io la vedo un po' così. Bisognerebbe sempre un po' distinguere tra politica e etichetta, cioè l'etichettamento dell'etichettatura delle situazioni o delle realtà è una debolezza di chi pone l'etichetta, secondo me. Viceversa la politica è una cosa che fanno un po' tutti quanti, la politica è sempre, tutto è politico in qualche modo, ogni azione, sembra Dario Fo diceva, si fa politica ogni volta si fa la spesa, per esempio, no? Cioè nel senso che poi noi siamo continuamente immersi, abbiamo continuamente la possibilità di fare delle scelte che sono scelte politiche. Va da sé che condurre una battaglia che di fatto scardina o comunque che si pone contro uno dei principi di quello che è oggi il capitalismo neoliberista, principi culturali ed economici anche, sociali, in qualche modo la critica al capitalismo storicamente è un qualcosa di appannaggio della sinistra, comunque questo è un dato di fatto, e non è un caso che comunque il movimento anche copyleft abbia attecchito molto in certi ambienti. Detto questo, io credo che faccia parte del percorso di assoggettamento dei popoli il messaggio che è stato veicolato, per cui conviene sempre semplificare, essere più concisi, più chiari. Invece io credo che la realtà sia un pochino più complessa, e tante volte questa associare una cosa semplice e chiara a qualcosa di positivo, secondo me, invece di far passare i concetti, rischia semplicemente di spargere pressappochismo e superficialità, che poi è quello che ti fa mettere le mani davanti agli occhi e davanti alle orecchie per non sentire. Quindi bisognerebbe anche ritornare a perdere tempo serenamente nell'approfondire, nel leggere, nello sbagliare, nell'ascoltare chi apparentemente la pensa diversamente da noi. Questo senza rinunciare all'identità, perché l'altra cosa che sta passando che è drammatica è che sono tutti quanti uguali. Non è vero che sono tutti quanti uguali, ovviamente. Però bisogna anche avere, non stare barricati col mitra puntato nel nostro giardino fortino e cercare di avere un atteggiamento aperto. Quello è fondamentale. Senza però perdere la propria identità. È un po' un equilibrio fra le due cose. Certo, le etichette non servono assolutamente a niente. E quello può essere un ostacolo. Bisognerebbe avere la forza di non subire l'etichettamento e al tempo stesso di non perdere la propria identità. Non è un passaggio facile in questo momento, dove tutto è etichettabile, taggabile, in ogni momento. È fatto apposta per poter essere inscatolato e semplificato in un genere, in un contesto. Quelli fanno così, quelli si vestono in quel modo, quindi sono così, eccetera, eccetera. Io trovo un esempio di povertà del nostro tempo, questo, non di ricchezza. E poi va a scapito di tutti. Sicuramente, appunto, come dicevi tu, la televisione ha la propria cioè, creata, no? Una grandissima percentuale, la televisione l'ha creata, e adesso che è morta, cioè, lo condivido completamente, questa schifezza che cioè, costantemente va avanti, no? questo zombie continua a parlare, mi sembra che noi viviamo, cioè, abbiamo ereditato queste etichette della televisione, e ce le portiamo comunque in spalla, no? Cioè anche da giovani. Ed è difficile, cioè difficile riuscire a svincolarsi. E internet sicuramente è un luogo cioè molto tuo, dove puoi andare soprattutto col suono, perché quell'immagine, secondo me, su internet l'ha resa molto, cioè ha distrutto molto il valore dell'immagine, quello che vedi. Cioè, non so, purtroppo anche il fatto che tutti possono mettere tutto, cioè in un certo senso, non so, poi perché anche no, una cazzata, però secondo me ha abbassato tantissimo quel modo critico, no, di guardare le cose. Invece suono, questa possibilità di poter scaricare, ascoltare, dire ah questo è bello, cioè rimane comunque rimane quello, no? Cioè rimane quello che è stato prodotto e quello che hai scaricato, no? E poi, tra l'altro, poi volevo chiedermi, ok, una volta che io ho scaricato, no? Ho ascoltato, mi piace, poi la possibilità comunque di poter comprare il CD, il disco, sì, è certo, bello avere il quello disco, c'è, no? Poi quello comunque lo, cioè si cioè funziona, tanta gente se lo scarica per me proprio a dire CD, l'ho scaricato, ce l'ho, però adesso lo voglio comprare. Tra l'altro lo compra il CD, altra cosa che andrebbe detta, i CD oggi non hanno più il ruolo che avevano anche soltanto 7-8 anni fa, cioè uno si compra il disco per sentire quello che c'è dentro, è molto raro che uno si compra un disco a scatola chiusa, direi che, cioè io sinceramente non l'ho quasi più fatto, se no quando magari vado a vedere un concerto di un gruppo indipendente che altrimenti non lo riacchiappo più, e magari riandarmi a comprare il disco sarebbe un po' complicato e lo prendo perché mi è piaciuto il concerto, cose del genere, ma è difficile che se esce un disco nuovo di qualcuno non me lo ascolto prima, per cui il CD è più la testimonianza del rapporto che un ascoltatore ha con quel gruppo, che un fan ha con quel gruppo, che non è lo strumento per ascoltarlo. Cioè noi abbiamo considerato i CD come l'evoluzione del vinile per tanto tempo, in realtà il vinile una volta o ce l'avevi oppure non ce l'avevi, non è se tu volevi sentirti i Pink Floyd ce dovevi avere qualcosa a casa, altrimenti non lo potevi sentire. Oggi invece uno c'ha magari il disco dei Rain perché durante l'estate l'amico suo l'ha portato in vacanza e se lo sono sentito, gli è piaciuto e magari capita al concerto e se lo compra perché è un oggetto, c'ha il libretto, c'ha un lavoro grafico, e poi ripeto è la testimonianza di un rapporto. Però bisogna anche uscire un po' dalla logica del vendere dischi, io neanche so se noi faremo ancora dischi rotondi di quelli che finiscono dentro il lettore CD, sinceramente, perché è un è qualcosa di passato, non so, va anche riconsiderato questo discorso, tutto qua, ecco. Io volevo riallacciarmi un po' a quello che dicevi prima rispetto anche un po' alle etichette, che secondo me, cioè, è vero che oggi con le etichette, con i pregiudizi, bisogna farsi i conti, insomma. Resto però dell'avviso che posti come il Molino, come gli spazi occupati, i centri sociali, oltre comunque ad assorbire quello che sono un po' anche le influenze esterne, che sono influenze estremamente negative, rimangono comunque sempre dei posti di resistenza. Resistenza per me significa, oltre comunque a quello che è proporre qualcosa di alternativo, è anche un concetto di offensività rispetto a quello che ci sta fuori,